Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Per essere sinceri, e in questa storia della mia vita ogni parola è la sacrosanta verità, la mia passione per Nora iniziò in modo molto volgare e antiromantico. Non le salvai la vita, anzi, una volta quasi la ammazzai, come sentirete. Non la vidi suonare la chitarra al chiaro di luna e non la strappai nemmeno dalle mani di una banda di briganti, come fa Alfonso con Linda Mira nel romanzo. Ma un giorno d'estate, a Bradystown, andai in giardino dopo pranzo per cogliere uva spina da mangiare per dessert. E mentre pensavo soltanto all'uva spina, e lo giuro sul mio onore, mi imbattei in Miss Nora e un'altra delle sorelle, quella con cui allora andava d'accordo. Stavano tutte e due cogliendo uva spina. «Come si chiama l'uva spina in latino, Redmond?» dice lei. Stava sempre a punzecchiarmi. «So solo come si chiama l'oca», rispondo. «Ah sì? E come?» strilla Miss Maisy, impertinente come un pappagallo. «Qui, bella mia», dico io, perché non mi è mai mancata la prontezza di spirito. E così ci mettemmo tutti al lavoro sul cespuglio di uva spina, ridendo e chiacchierando che più contenti non si può. E mentre ci divertivamo, Nora riuscì a graffiarsi un braccio e sanguinava e gridava. E il suo era un braccio ben curvo e bianchissimo. Lo bendai e credo che mi fu permesso di baciarle la mano. Anche se era la mano più grossa e goffa che si sia mai vista, quel favore mi sembrò il più incantevole a me mai concesso. Me ne tornai a casa in estasi. Ero un ragazzo di gran lunga troppo ingenuo per nascondere qualsiasi sentimento e ben presto non ci fu una sola delle 8 ragazze di Castle Brady che non sapesse della mia passione e scherzasse e si complimentasse con Nora per lo scapolone che si era conquistata. I tormenti di gelosia che quella crudele civetta mi fece soffrire furono orribili. A volte mi trattava come un bambino, altre volte come un uomo, e ogni volta che capitava qualcuno di fuori casa, lei mi piantava in asso. «Perché dopo tutto, Redmond, mi diceva, tu hai solo 15 anni e non hai una guinea al mondo», al che io le giuravo che sarei divenuto il più famoso eroe mai conosciuto fuori d'Irlanda e mi impegnavo di avere prima dei 20 anni abbastanza denaro da comprare una proprietà grande 6 volte, Castle Brady. Tutte vuote promesse che naturalmente non mantenni, ma non c'è dubbio che mi influenzarono nei primissimi anni della mia vita e mi portarono poi a compiere quelle grandi imprese per cui sono stato celebrato e che verranno qui narrate nel loro ordine. Almeno una devo raccontarla affinché le mie giovani lettrici sappiano che razza d'uomo fosse Redmond Barry, che coraggio avesse e che indomita passione. Dubito che qualcuno di questi giovanotti all'acqua di rose che si vedono in giro oggi, posto di fronte a un pericolo, oserebbe fare la metà di quello che feci io. Occorre premettere che in quel periodo il Regno Unito era in stato di continuo allarme per le voci, piuttosto credibili, di una prossima invasione francese. Si diceva che il pretendente godesse di grande favore a Versailles. Ci si aspettava da un giorno all'altro uno sbarco in Irlanda e i nobili e i benestanti di ogni parte del regno, compresa la nostra, davano prova di fedeltà, raccogliendo reggimenti di fanteria e di cavalleria per resistere agli invasori. Bradystown mandò una compagnia a unirsi al reggimento, di cui era capitano Master Mick. Ricevemmo una lettera di Master Ulick da Trinity College, che raccontava come anche l'università avesse formato un reggimento in cui lui aveva l'onore di essere caporale. Come li invidiavo, soprattutto quell'odioso Mick, quando lo vidi marciar via alla testa dei suoi uomini, nella sua giubba scarlatta e merlettata con il nastro sul cappello. Lui era capitano, quella povera creatura snervata, e io non ero nulla. Io che mi sentivo in corpo tanto coraggio quanto il duca di Cumberland in persona, e che sentivo per di più che una giubba rossa mi sarebbe stata tanto bene. Mia madre diceva che ero troppo giovane per arruolarmi nel reggimento, ma in realtà era lei a essere troppo povera. Il costo di un'uniforme nuova si sarebbe mangiato metà del suo reddito annuo e, d'altra parte, lei non poteva accettare che suo figlio facesse una figura indegna della sua nascita. Mi voleva in groppa al miglior corridore, vestito degli abiti più eleganti e accolto nei circoli più distinti. E così tutta l'isola vibrava al suono dei corni da guerra. I tre regni risuonavano di musiche militari e ogni gentiluomo andava a rendere omaggio alla corte di Bellona, mentre io ero miseramente costretto a starmene a casa nella mia giacchetta di fustagno, a sospirare in segreto la gloria. Mr. Mick andava e veniva dal reggimento portando con sé molti suoi commilitoni. Le loro uniformi e i loro modi da gradasso mi riempivano di tristezza, ma erano le attenzioni che Miss Nora dedicava regolarmente a tutti loro a farmi quasi impazzire. Eppure nessuno pensava a mettere in conto al comportamento della giovane dama la mia malinconia. Si credeva che fossi semplicemente deluso di non poter seguire la professione delle armi. Una volta gli ufficiali diedero un grande ballo, a cui naturalmente vennero invitate tutte le signore di Castle Brady. Facevano una bella carrozzata di mostri. Sapendo bene a quali torture mi avrebbe sottoposto quella civetta di Nora, con le sue interminabili moine con gli ufficiali, rifiutai per un pezzo di unirmi alla comitiva. Ma Nora sapeva come conquistarmi in modo da rendere vana ogni mia resistenza. Mi assicurò che i viaggi in carrozza la facevano sempre star male. «E come faccio ad andare al ballo?» disse. «Se tu non mi porti con Daisy, io sul mio cuscino e tu davanti sulla sella.» Daisy era una buona giumenta puro sangue che apparteneva a mio zio. A una proposta del genere non potevo assolutamente dire di no. Così cavalcammo tranquillamente e quando lei promise di ballare con me una danza campagnola mi sentii fiero come un principe. Quando la danza era già finita, quella piccola civetta ingrata venne a comunicarmi che si era completamente dimenticata del suo impegno e aveva ballato tutto quel giro con un inglese. In vita mia ho sopportato molti tormenti, ma nessuno pari a quello. Cercò di farsi perdonare per avermi abbandonato, ma io ero irremovibile. Alcune tra le più graziose ragazze presenti si offrirono di consolarmi. Ero il miglior ballerino della sala. Una volta provai davvero a ballare, ma mi sentivo troppo disperato per continuare. E così dovetti starmene lì, da solo, tutta la notte, in agonia. Avrei voluto giocare, ma non avevo soldi, tranne per la moneta d'oro che mia madre mi aveva raccomandato di tenere sempre nel mio borsellino, come deve fare un gentiluomo. Di bere non me ne importava, e poi a quei tempi non conoscevo ancora il terribile conforto che se ne ricava. Invece, pensai di uccidere me stesso e Nora, e soprattutto di far fuori il capitano Quinn. Finalmente, sul far del mattino, il ballo terminò. Le signore del nostro gruppo erano partite nella vecchia carrozza traballante e scricchiolante. Daisy venne portata fuori e Miss Nora prese posto dietro di me. La lasciai salire senza una parola. Ma non eravamo mezzo miglio fuori città che lei cominciò a inventare complimenti e moine per farmi passare il malumore. «Certo, è una nottata gelida, Redmond mio, e senza un fazzoletto al collo ti prenderai un raffreddore.» A questa osservazione amichevole, venuta dal cuscino, la sella non rispose. «Hai passato una bella serata con Miss Clancy Redmond? Vi ho visto insieme tutta la notte.» La sella rispose solo con uno stridore di denti e un colpo di frustino a Daisy. «Per l'amor di Dio, fai impennare Daisy, mi fai cadere! Sei uno sbadato e lo sai bene, Redmond, che sono tanto paurosa!» E così dicendo, il cuscino aveva infilato un braccio attorno alla vita della sella, stringendola, forse la stretta più gentile che si possa immaginare. «Detesto Miss Clancy, lo sai benissimo», risponde la sella. «E ho danzato con lei soltanto perché la persona con cui volevo danzare ha preferito tenersi impegnata tutta la notte. Ma come, c'erano le mie sorelle? Disse il cuscino, che ora se la rideva apertamente, sprezzante e consapevole del suo vantaggio. E quanto a me, caro mio, non sono stata 5 minuti in sala, che ero già impegnata per ogni singolo ballo. Ma eri proprio obbligata a ballare 5 volte con il capitano Quinn? Dissi io, e... Oh, strano, delizioso incanto della civetteria. Credo davvero che Miss Brady, all'età di 23 anni, sentì un fremito di piacere, scoprendo di avere tanto potere su un povero ragazzo innocente di 15 anni. Naturalmente rispose che non gliene importava un fico secco del capitano Quinn, che danzava con grazia, certo, ed era un bel pezzo d'uomo, che in più la divisa del reggimento gli stava a pennello, e se lui la invitava a ballare, come poteva dirgli di no? Ma a me hai detto di no, Nora! Oh, con te posso ballare tutti i giorni, rispose Miss Nora, scuotendo la testa, e se balli con tuo cugino a una festa da ballo, sembra che tu non sia capace di trovare nessun altro. E poi, disse Nora, e questo fu un colpo tagliente, crudele, che mostrava quanto potere lei avesse su di me e come ne usasse senza pietà. E poi, Redmond, il capitano Quinn è un uomo e tu sei solo un ragazzo. Se mai lo incontro di nuovo, urlai con una bestemmia, vedrai chi è il vero uomo tra noi due. Mi batterò con lui alla spada o alla pistola, capitano o non capitano. Un uomo, come no. Mi batterò con qualunque uomo, con tutti gli uomini. Non ho tenuto testa a Mick Brady quando avevo 11 anni? Non ho battuto Tom Sullivan, quel gran bestione grosso come un toro che di anni ne ha 19? Non ho fatto a pezzi l'insegnante di francese? Oh, Nora, sei crudele a prendermi in giro così. Mentre facevamo tutte queste chiacchiere stupide, arrivammo a un luogo che da quel giorno è noto come il Ponte del Salto di Redmond. Era un vecchio ponte alto, su un torrente piuttosto profondo, tra le rive rocciose, e mentre la giumenta Daisy, col suo doppio carico, vi stava passando sopra, Miss Nora, per dar stura alla sua fantasia e continuare a battere sul tema militare, scommetto che aveva ancora in mente il capitano Quinn, disse: «Immagina, Redmond, tu che sei un grande eroe, di star passando sul ponte e c'è il nemico dall'altra parte. Sguainerei la spada e mi aprirei un varco a forza di fendenti. Come? Con me seduta sul cuscino? Mi faresti morire, povera me!» Questa signorina non faceva che dire «povera me!» «Beh, allora ecco che cosa farei. Salterei con Daisy nel fiume e vi porterei tutte e due a nuoto dall'altra parte, dove i nemici non potrebbero venirci dietro». «Un salto di 20 piedi! Non oseresti mai fare una cosa del genere in groppa a Daisy!» Invece il cavallo del capitano, Black George, ho sentito dire che il capitano Quinn non terminò mai la parola. Reso pazzo dal continuo ricorrere a quell'odioso monosillabo, le gridai: «Tienti stretta la mia vita!» E dato un colpo di sprone a Daisy, in un attimo saltai oltre il parapetto e giù di sotto, nell'acqua profonda. Ora non so nemmeno dire perché, se volessi affogare me e Nora, o compiere un atto da far voltare anche il capitano Quinn, o se credessi di aver davvero il nemico davanti a noi, beh, ora non saprei proprio dirlo, ma insomma, saltai. La cavalla affondò con tutta la testa, la ragazza strillò mentre affondava, e strillava ancora quando riemerse. Io la deposi mezza svenuta sulla riva, dove ben presto ci trovarono i familiari di mio zio che, a quelle grida, si erano affrettati a tornare indietro. Tornai a casa e subito presi una febbre che mi tenne a letto per 6 settimane. Quando mi alzai, ero prodigiosamente cresciuto di statura e al tempo stesso ancor più violentemente innamorato di quanto non fossi già prima. All'inizio della mia malattia, Miss Nora era venuta con regolarità al mio capezzale, dimenticando, per amor mio, il disaccordo tra mia madre e la sua famiglia. Nella maniera più cristiana l'aveva dimenticato volentieri anche mia madre. E vi assicuro che fu un segno non piccolo di bontà d'animo, in una donna di carattere altezzoso come lei, che di regola non perdonava a nessuno, accantonare per amor mio la sua avversione per Miss Brady e riceverla con gentilezza. Il fatto è che io, giovane e matto com'ero, non facevo che decantare Nora e chiedere di Nora, accettavo le medicine soltanto dalla sua mano, mentre ero sgarbato e cupo con la mia buona madre, che mi amava più di ogni altra cosa al mondo. E rinunciava anche alle sue abitudini preferite e alla sua più che legittima gelosia, pur di farmi felice. Durante la convalescenza mi accorsi che le visite di Nora si facevano sempre meno frequenti. «Ma perché non viene?» domandavo irritato 20 volte al giorno. Per rispondere, mia madre era costretta a inventare scuse come meglio poteva, dicendo per esempio che Nora si era storta una caviglia, o che aveva litigato con lei, o qualsiasi altra risposta pur di calmarmi. E molte volte quell'anima buona mi lasciava per andarsene in camera sua, dove restava sola con il suo cuore spezzato, e poi tornava da me con un sorriso, in modo che non sapessi nulla della sua mortificazione. A dir la verità, non facevo neppure grandi sforzi per accertarmene, e temo che anche se l'avessi scoperto, non ne sarei stato molto toccato. Credo che l'inizio dell'età virile sia il periodo in cui il nostro egoismo è al massimo. Abbiamo un tale desiderio di prendere il volo e lasciare il nido familiare che né lacrime, né preghiere, né sentimenti affettuosi valgono a controbilanciare questo strapotente bisogno di indipendenza. Deve essere stata molto triste la mia povera mamma. Il cielo sia buono con lei in quel periodo della mia vita. Più tardi mi ha spesso raccontato che tuffo al cuore sentisse quando vedeva che tutte le attenzioni e l'affetto di tanti anni io li dimenticavo in un minuto, e per amore di una piccola fraschetta senza cuore che stava solo giocherellando con me in mancanza di un pretendente migliore. Perché la verità era che nelle ultime 4 settimane della mia malattia a Castle Brady era venuto a stare niente meno che il capitano Quinn, che faceva formalmente la corte a Nora, e mia madre non osava rivelarmi queste notizie, mentre Nora stessa faceva ben attenzione a mantenere il segreto. Se lo scoprì, fu per puro caso. Volete che vi racconti come? Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.